Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Con questa puntata inizia la nuova stagione di Essere e Avere. Siamo pronti a raccontarvi tutto quello che c'è da sapere su consumi e nuove tendenze, dai fenomeni emergenti del retail, della moda, del design, passando per marketing, comunicazione e social media, con le voci e le storie dei protagonisti. Novità di questa nona stagione, Bikeology, una rubrica tutta dedicata al mondo della bicicletta, l'oggetto simbolo dei nuovi stili di vita e di consumo. Dalla bicicletta oggi passa tutto quanto fa tendenza e noi ve lo racconteremo. La fine dell'estate si porta via due dei tormentoni di questi mesi, le docce gelate e l'ossessione per il meteo. Ne parliamo in questa puntata, riconducendo la riflessione, come sempre, alle tendenze di consumo. Adesso vorrei nominare lo stilista Massimiliano Giornetti, Rocco Hunt e Paola Cortellesi. Matteo Renzi, toccherà a te, mi raccomando, non ci deludere. Siete pronti? Sì. Io mi metto così. 3, 2, 1, vai! No! No! Grazie a Jorge e Laura per avermi invitato a questo Ice Bucket Challenge. E io vorrei invitare Toni Cairoli, Marco Materassi, Cesare Cremonini e Ralf. Erano solo alcune delle docce gelate anti-SLA, abbiamo selezionato quelle italiane, ma il fenomeno, come tutti sappiamo, è mondiale. Ne parliamo per riflettere su attivismo online e partecipazione, engagement per così dire, e azione. Un tema che interessa chiunque utilizzi i canali social per le proprie strategie, un tema molto sentito nel mondo dei consumi. Quanto di quello che passa dalla rete si ferma al protagonismo, all'esibizionismo personale e diventa invece azione concreta, che sia una donazione oppure una decisione d'acquisto. Nelle polemiche che hanno accompagnato l'Ice Bucket Challenge, il mezzo ha finito col prevalere sul fine e il gesto ha contato più del risultato. Allora partiamo proprio da qui, da qual è stato il risultato di questa campagna. Lo abbiamo chiesto a Massimo Mauro, che è il presidente di AISLA, Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica. È stata un'iniziativa straordinaria, perché ci ha consentito una campagna di comunicazione su far capire quanto è importante parlare di sclerosi laterale amiotrofica e quanto è importante raccogliere fondi per finanziare la ricerca. Ad oggi siamo a 1.527.000 euro, è una cifra enorme per le medie di raccolta fondi della nostra associazione, e questo ci consentirà di finanziare almeno il 100% in più di progetti che finanziamo annualmente. Devo dire che grazie a questa idea semplice ma straordinaria, grazie alla partecipazione delle persone famose e non, siamo riusciti a raggiungere un risultato fantastico. Purtroppo tutti i paesi tagliano i fondi sia all'assistenza sia alla ricerca, però un paese civile si può definire tale se è capace di occuparsi delle persone meno fortunate. Siamo impegnati quotidianamente a cercare di assistere le famiglie e gli ammalati, che ricordiamo sono 6.000 in Italia, però per una malattia che non ha cura l'unica speranza per le famiglie e per gli ammalati è sapere che non mancano i fondi alla ricerca. Il 21 settembre ci sarà la giornata nazionale per la ricerca sulla SLA, la raccolta fondi continua. Diamo l'indicazione ai nostri ascoltatori che cosa si può fare. Beh, intanto si può fare un SMS al 45502 e si continua a finanziare la ricerca sulla SLA. E poi saremo in 150 piazze italiane. Abbiamo a disposizione 12.000 bottiglie di vino che offriremo a tutte le persone di buona volontà e gli chiederemo una donazione. C'è una parola nel gergo di internet che rispecchia il senso delle critiche che sono state mosse a questa campagna. La parola è slacktivism, letteralmente l'attivismo dei fannulloni. Indica cioè l'attivismo che si limita ad un click e non si traduce poi in azioni concrete. Ne abbiamo parlato con un esperto di mobilitazione online, Salvatore Barbera, è il direttore delle campagne di Change.org in Italia. Intanto io partirei da quelli che sono i risultati di una campagna, ovviamente una campagna di comunicazione il cui obiettivo è quello di far conoscere la problematica di questa malattia e di raccogliere fondi. In America, dove è nato il fenomeno e anche ha avuto il suo aspetto forse più grande, sono stati raccolti più di 100 milioni di euro nel mese luglio ed agosto, sono state donazioni ad un'organizzazione che mediamente riceveva 19 milioni di euro, nel 2013 aveva ricevuto 19 milioni di euro, quindi si tratta di un aumento consistente e soprattutto su una malattia che almeno in America non era molto conosciuta. Circa il 50% degli americani conosceva questa malattia prima dell'Ice Bucket Challenge e oggi ancora non ci sono dati certi, però sicuramente è aumentata la consapevolezza su questa malattia. Il tema dello slacktivismo non è certo nuovo ed è uno dei temi che preoccupa tutti, prima di tutto chi come me si occupa di sociale online. Diciamo forse in questo caso qua non è, visti anche i numeri, il caso più eclatante. Ci sono campagne che sono di mera comunicazione, non hanno portato nessun risultato, qua ci sono stati. Ovviamente qui paga un po' l'aver avuto successo, le cose successe spesso poi vengono criticate e va benissimo anche affrontare, usare questo come spunto per affrontare il tema dello slacktivismo. Io credo che se vogliamo fare campagne sociali, vogliamo fare anche comunicazione generale, non si può più pensare di farlo senza gli strumenti del web. Questo non vuol dire che tutto quello che passa dal web è giusto e corretto, ma sicuramente è uno strumento incredibile per raggiungere, come in questo caso qua, milioni di persone, centinaia di milioni di persone in tempo molto brevi, e il lavoro di chi fa comunicazione sociale e di chi comunque anche come utente vuol portare avanti una causa sociale è quella di non fermarsi ovviamente a un click, ma a seconda dei casi donare a una organizzazione o fare la propria causa, anche portarla per strada. Non sono strumenti che devono essere in competizione per forza con altre strumenti, e ora voglio ricordare che col cellulare in realtà abbiamo internet dovunque, non è solo qualcosa che facciamo dal salotto di casa. Buongiorno a tutti, mi chiamo Salvatore Usala, felicemente sposato da quasi 34 anni. Da circa 5 ho un amante di nome Sla. Mia moglie non gradiva, ma dopo ci ha fatto l'abitudine. Anche sulla vostra piattaforma ne abbiamo appena sentito un estratto. Rimandiamo tutti ovviamente a visitare il vostro sito. È attiva una campagna sulla Sla. Di che cosa si tratta? È una campagna che è nata proprio dall'Ice Basket Challenge ed è stata lanciata proprio da un malato di Sla, Salvatore Usala, che ha 60 anni e da oltre 10 anni si trova in un letto immobilizzato per colpa di questa malattia, e che ha fatto però di questa sua sfortuna anche la sua battaglia personale. Infatti lui da anni si batte per la ricerca sulla SLA, ma non solo, anche per quello che è il trattamento delle persone che hanno questa malattia. Ci sono 350 milioni di euro bloccati in varie regioni italiane che sarebbero destinate per il sostegno a chi è incapace di muoversi, quindi a chi ha bisogno di assistenza domiciliare e sanitaria. Salvatore chiede che vengano sbloccate al più presto, lo chiede proprio a Renzi, che è stato uno dei protagonisti dell'Ice Bucket Challenge quest'estate. Bikeology. Ve lo abbiamo anticipato in apertura, in questo spazio racconteremo il mondo visto dalle due ruote attraverso le storie, le notizie, il punto di vista di una serie di insider molto speciali, a partire da Nicolò De Devitis. Ciao Nicolò. Ciao Maria Luisa, buongiorno a tutti. I nostri ascoltatori più affezionati se lo ricorderanno, 36.000 follower su Instagram, l'account è _ divano letto. Nicolò è un bike blogger, la definizione è tua Nicolò, che cosa significa? Me la lasci fare a me. No, guarda, significa praticamente, io ho iniziato per gioco, per prendere in giro una mia amica che faceva la fashion blogger, che ormai chiunque di giri ci sono fashion blogger, più dei funghi, e allora ho fatto questa cosa, ho voluto cambiare la parola fashion con la parola bike, E niente, le modelle di tutti quanti i scatti delle mie foto sono, non saranno più i soliti vestiti, le solite top model che vediamo in passerella, ma semplicemente delle comunissime biciclette che incontro in contesti particolari in giro per il mondo. Che cosa ci racconti oggi, Nicolò? Ti racconto di un'iniziativa che mi sono inventato, perché adesso sì, bello fotografare, però volevo fare qualcosa di più pragmatico, di più touchable. Allora ho iniziato a organizzare dei raduni in giro per l'Italia. Ma come sai, io sono sì amante della bicicletta, ma non sono un tipo da caschetta e tutina, sono più come la bicicletta come stile di vita, cioè utilizzarla come oggetto proprio, non agonisticamente. Mi sono inventato questi raduni, chiamati appunto bike walk, quindi una passeggiata in giro per rendere subito l'idea che non sarà una gara ma una passeggiata. Settimana scorsa siamo stati a Firenze e settimana prossima invece ci sarà quello più grande, organizzato con il Comune di Roma, con un po' di attori che verranno anche a sostenermi. Partiremo sabato 21 settembre al mezzogiorno da Piazza del Popolo. E sarai allora uno dei nostri inviati alla scoperta del pianeta bicicletta. Grazie Nicolò, grazie. Alla prossima. Alla prossima, ciao Maria Luisa. Hi, my name is Stereo Mike. Ora ci prendiamo uno spazio per parlare di noi, perché ha debuttato ieri l'edizione italiana firmata Sole 24 Ore di How to Spend It, il prestigioso magazine internazionale del Financial Times, da 20 anni punto di riferimento nel mondo per consumi e lifestyle. Racconteremo la via italiana al piacere e alla bellezza, dice Nicoletta Polla Mattiot, direttore del magazine, al microfono di Marta Cagnola. Io credo che l'Italia sia circondata di cose belle, più ancora che di lusso parlerei di bellezza, perché la bellezza è fatta di lusso, ma lusso di manualità, lusso di lavoro, lusso di artigianalità, e credo che sia questo il segreto da cui ripartire, il lavoro per produrre bellezza, bellezza a cui siamo storicamente abituati e che vale la pena di valorizzare e di crederci proprio per ripartire. Il bello comunque fa stare bene ed è una dimensione di piacevolezza e anche di apprendimento sempre. Dopodiché ciascuno calibrerà e sceglierà il suo lusso. Ecco, io credo tanto che il lusso, ed è qualcosa che abbiamo ribadito moltissimo nel lancio di questa testata, il vero lusso è il tempo e anche quello che ci assomiglia. Lo slogan, diciamo così, il led di questa testata è tempo di avere quello che sei. Non è importante avere cose lussuose, è importante avere cose che ci corrispondono e che ci fanno star bene. Essere e avere. Forse mai come in questi giorni i bollettini meteorologici, le previsioni del tempo vengono seguiti con tanto interesse e, diciamolo, con una certa ansia. I giorni di Ferragosto costituiscono una parentesi di vacanza, di riposo, di svago. Il tempo non dovrebbe presentare sorprese, non dovrebbe turbare il lieto scorrere di questi pochi giorni di ferie. Focus sui trend. Bei tempi quelli del colonnello Bernacca, personaggio cult della storia della TV e della meteorologia. Una certezza, quella sul bel tempo, che quest'estate, ahi noi, lo sappiamo tutti, è mancata. Mai come quest'anno abbiamo consultato le previsioni del tempo, siti, app, video e quant'altro, previsioni che generano un business sempre più fiorente. Il meteo, insomma, è stato il tormentone estivo, tanto che si moltiplicano dall'altro lato in questi giorni le riflessioni sull'impatto della meteorologia sui consumi. Viaggi, secondo Confturismo, il maltempo ha indotto il 15% degli italiani, pensate, a modificare i propri piani per le vacanze, ma non solo viaggi, anche prodotti, pensiamo a categorie come i condizionatori, i ventilatori gelati e poi attività anche piscine, gite, parchi a tema, solo per citarne alcune. Ecco perché in questa nuova puntata della stagione di Essere Avere abbiamo deciso di parlare di meteo e consumi. Lo facciamo anche in questa nuova stagione con i ricercatori di Future Concept Lab. Paolo Ferrarini, ben ritrovato. Ben ritrovati a voi. Da dove partiamo? Allora, partiamo da una considerazione generale su quelle che sono le nostre abitudini di consumo in questa era elettronica. Le tecnologie digitali ci hanno aiutato a programmare e ottimizzare tutti i nostri momenti. Noi abbiamo un'app per tutto, abbiamo un'app per ogni cosa e queste app ci danno la possibilità o a volte creano l'illusione di avere sempre comunque tutto sotto controllo, in modo che noi possiamo organizzare ogni nostro momento in modo che sia felice, in modo che sia pieno. Quindi il fine settimana deve essere perfetto, il fine settimana deve avere il tempo migliore del mondo, ma anche semplicemente alla mattina quando ci alziamo noi vogliamo sapere se ci conviene usare i mezzi pubblici, oppure ci conviene usare lo scooter, oppure ci conviene usare l'automobile. Ecco che le previsioni del tempo diventano un elemento fondamentale per governare questo tipo di complessità. Se pensiamo anche alle nostre abitudini online, ma non solo, la tecnologia diventa sempre più predittiva. Gli algoritmi ci aiutano, ci suggeriscono quelli che potrebbero essere i libri, ad esempio, che ci piacciono. Succede con Amazon, ormai tutti gli utenti di Amazon sono abituati a questo servizio, che è un servizio di previsioni, anche questo, non si tratta di previsioni del tempo, si tratta di previsioni di consumo. Netflix, il gigante americano dello streaming online, addirittura propone una serie di contenuti in base a quello che abbiamo visto, in base a quelli che sono i nostri gusti, eccetera. Hanno dichiarato che l'80% dei contenuti fruiti su Netflix arrivano dai suggerimenti che dà Netflix, quindi è una previsione super attendibile. Nell'80% dei casi Netflix riesce comunque a aiutarci a programmare quello che è il nostro tempo libero. Noi di Future Concept Lab leggiamo tutti questi fenomeni con il paradigma quick and deep. Quick non è fast, quick vuol dire veloce, tempestivo, quindi avere la soluzione giusta al momento giusto. In questo le previsioni del tempo sono comunque un elemento molto molto importante, che però diventa sempre più fondamentale nella programmazione della nostra vita quotidiana e di quello che è il nostro tempo libero. Accennavamo nell'introduzione alla ricaduta consumi, abbiamo citato qualche categoria di prodotto, ma anche addirittura una ricaduta sull'organizzazione del lavoro. Un caso quest'estate ha fatto notizia, quello delle gelaterie Grom. Esattamente, Federico Grom in un'intervista ha dichiarato che la distribuzione dei carichi di lavoro sarà programmata anche in base a quelle che sono le previsioni del tempo. Quindi se è previsto che ci sarà brutto tempo nei giorni successivi, chiederanno ai collaboratori, ai dipendenti di essere meno presenti. Teniamo conto che Grom ha comunque 60 punti vendita e 750 dipendenti. Quindi il meteo che arriva anche nei contratti di lavoro. Ecco, questa attenzione, Paolo, per concludere, quasi un'ossessione in alcuni casi abbiamo detto, arriva anche nei prodotti? Sì, sta arrivando anche nei prodotti. È un caso molto recente. La città di Helsinki ha lanciato un progetto per il quale entro il 2025 vuole eliminare tutte le auto private, fornendo solo un'app che consenta di utilizzare i mezzi pubblici in maniera intelligente, anche in base alle previsioni del tempo. Ad esempio, questa app mi potrà dire se io posso andare da un punto A a un punto B in bicicletta. Se so che poi a un certo orario inizierà a piovere, allora potrò prendere una macchina del car sharing e mi dirà dove si trova l'auto più vicina. La cosa interessante è che ogni utente di questo servizio diventa una sorta di stazione meteo, nel senso che oltre a usufruire del servizio io posso condividere delle informazioni sul meteo, quindi divento utente ma anche fornitore del servizio. Un altro fenomeno molto diffuso soprattutto negli Stati Uniti è quello di Nest, che è un termostato intelligente che è stato di recente acquistato da Google, che regola la temperatura delle nostre abitazioni in base alle nostre abitudini, in base alla temperatura esterna, eccetera. Fornisce questo termostato un servizio di previsioni del tempo basato sulle informazioni che tutti i termostati raccolgono e condividono. Il consumautore. La riflessione finale è affidata anche per questa nuova stagione al nostro ospite fisso che ci aiuterà a leggere in controluce il mondo dei consumi, il sociologo Francesco Morace. Ben ritrovato. Buongiorno Maria Luisa e a tutti gli ascoltatori. Il consumautore, Francesco, una definizione che vuole evidenziare il protagonismo del consumatore oggi nel mondo dei consumi, appunto, il suo ruolo attivo. Per il nome della rubrica abbiamo voluto giocare anche con questa parola, richiamando il tuo contributo come autore, come saggista sulle tematiche connesse all'universo consumi e la trasformazione del ruolo del consumatore in questo momento. Ecco, che cos'è il consumautore? Che cosa indica questa definizione? Indica davvero un passaggio, una trasformazione paradigmatica, cioè ciascuno di noi non è più un passivo ricevitore di stimoli da parte del consumo e delle aziende, ma ognuno di noi è autore della sua stessa esistenza. E questo è molto importante per capire anche le nuove opportunità che si aprono, perché siamo tutti molto più attenti a quanto ci viene proposto e molto più interessati a integrare il nostro progetto di vita rispetto a quello che ci viene raccontato e proposto dalle aziende. Tutto questo evidentemente è possibile a costo zero, perché le nuove tecnologie ci trasformano in editori, autori, no? Quindi ciascuno di noi fotografa la sua vita, la racconta, la filma, e questo avviene ormai da quando si ha 6, 7, 8 anni. Ecco, quindi i nativi digitali sono degli autori in erba. La pubblicità, la comunicazione d'impresa, il marketing non sono più un monologo, si usa dire, sono diventate un dialogo. Esatto, questo non vuol dire che non ci sia un ruolo dei grandi comunicatori o dei produttori, però il ruolo è molto più quello degli stimolatori e non più dei persuasori, no? Ricordiamo tutti che negli anni 50-60 la teoria della pubblicità si fondava su quest'idea di persuasione occulta, quindi anche un po' ambigua. Oggi tutto avviene invece in trasparenza, perché ancora una volta il consumatore è in grado di controllare le fonti e di fare le sue verifiche, magari in rete, magari con dei gruppi di persone che sono affini, e quindi i grandi protagonisti comunque della produzione, della comunicazione, devono continuamente dialogare, in molti casi anche coinvolgere i propri consumatori se vogliono avere successo. Francesco Morace, grazie, a sabato prossimo. Grazie a voi. Finisce qui questa prima puntata della nuova stagione di Essere Avere, pagina programmi di Radio24.it per riascoltarla e scaricarla, pagina Facebook come sempre per i contributi aggiuntivi. A sabato prossimo 16:30, non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.